Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Apro in dolcezza parlando di glucosio. Ci sono persone che lo assorbono come aspirapolveri, tanto che dopo i pasti la loro glicemia si impenna, una condizione che può manifestarsi nei soggetti predisposti prima ancora che il diabete dia segni di sé. Ma finalmente è stato smascherato il colpevole. A Obiettivo Salute il professor Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Diabetologia, che ha condotto lo studio insieme al suo gruppo di ricerca. Abbiamo recentemente scoperto che persone che hanno una glicemia precoce dopo la prima ora dell'assunzione del pasto oppure dalla curva da carico di glucosio hanno un aumentato rischio di sviluppare la malattia, ma il meccanismo alla base di questa forma di prediabete cosiddetto non era noto. Oggi invece sappiamo che il responsabile è un trasportatore del glucosio che si trova a livello intestinale del duodeno e che è presente in eccesso in queste persone che hanno il prediabete e anche nelle persone con diabete di tipo 2. La buona notizia è che sia dei farmaci che sono in fase di sviluppo, ma sia anche delle sostanze presenti ad esempio nelle mele, quindi i cosiddetti fattori nutrizionali, possono ridurre l'assorbimento del glucosio attraverso questi trasportatori. Glicemia dopo i pasti, se si impenna, ascoltate i consigli del professor Sesti sulle pagine di Obiettivo Salute. Italiani sempre più longevi, ma dopo i 75 anni vivono in condizioni di salute peggiori rispetto agli altri anziani europei. A dirlo l'ultimo rapporto Istat sulla salute in Italia e nell'Unione Europea. A Obiettivo Salute il commento del professor Francesco Landi, primario di riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia deve far pensare soprattutto non solo che i nostri anziani stanno peggio, ma dobbiamo cercare di capire come possiamo affrontare questo problema, garantirgli una longevità in qualche modo più attiva. Ma dobbiamo pensare che la longevità noi la conquistiamo intorno ai 40-50 anni. Se leggiamo bene i dati Istat, noi ci accorgiamo che i nostri anziani sono quelli meno attivi, per esempio, sul piano dell'attività fisica. Ecco, una raccomandazione chiara e semplice. L'attività fisica è uno degli aspetti più importanti che dobbiamo assolutamente iniziare a fare intorno ai 40-50 anni. Solo in questo modo riusciremo ad essere degli anziani longevi ma anche attivi. Sulle pagine di Obiettivo Salute le 7 regole per invecchiare bene a cura del professor Francesco Landi. Per oggi è tutto, vi aspetto tra poco in diretta Facebook per parlare di dieta antistress. La programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto per una nuova puntata di Obiettivo Salute domani, sempre a mezzogiorno. Buona giornata da Nicoletta.